Allora, buonasera, benvenute e benvenuti a Cabaret Extra Voltaire. Questa sera ospitiamo Alba Sofia Vella che ci leggerà Wendy deve crescere. E lascerei partire Alba con la lettura del testo e poi ne parliamo un po' dopo. Wendy deve crescere. Tutti quanti crescono. Personaggi. Ombra. Wendy, signora Darling, signor Darling. Ancora buio. Una bambina dorme. Il ticchettio della vita ha da poco iniziato a scandire il suo tempo. Lentamente appare un'ombra dall'oscurità, con un bel sorriso sulle labbra. Io ti vedo. E tu no. Eppure sono vicino a te. Sei già così bella. Ciao. Sono qui per seguirti qualunque cosa farai. Essere in vita. Respirare. Che bella sensazione, mutare, cambiare. È una cosa primordiale. La sorella timida della spudorata notte. Questo è ciò che io sono. Ma non è il caso che tu lo sappia. Il solo dirlo è già superfluo. Il sorriso dell'ombra svanisce e una piccola luce illumina una bambina che lentamente si sveglia. Io sono qui? Sono appena arrivata. Sono appena arrivata da... Non mi ricordo sinceramente. Io sono metà mia madre e metà mio padre, però sono abbastanza sicura di essere... Sono una femminuccia. Io sono l'insieme di tutte le cose che mi hanno detto dovrò essere. Quindi, partendo da questo presupposto, sarò allegra, a modo, giudiziosa. Sarò una signorina di casa perfetta. Appare la silhouette di una donna. La signora Darling. Una giovane mamma che chiacchiera probabilmente con una sua amica al telefono. Ma guarda, guarda, guarda, guarda, ci fosse una volta che mi fa arrabbiare. Sì, sì, sono molto fortunata. Sì, sì, sì. Sì, sì, sono d'accordo, sì. No, è una femmina. È una femmina, sì. Sì, sono tutti uguali da piccoli, però lei è una femmina. No, ma è buonissima, eh? È buonissima. Non disubbidisce mai. Non perché è figlia mia, ma è diversa dalle altre bambine, eh? Lei mangia, fa la pipì e la cacca. Sempre negli stessi momenti della giornata. È una cosa incredibile, puntuale. L'ho fatta con l'orologio, con l'orologio. Poi, già si vede che diventerà bella. No, no, non perché figlia mia, ma si vede. Pensa che quando è nata, l'ostetrica ha detto testuali parole: è una bellissima bambina. E se lo dice l'infermiera, che di bambini ne ha visti tanti, sarà vero, no? Quando sarà grande, i ragazzini non esiteranno nemmeno un minuto prima di farle la corte. Wendy, nel frattempo, stava giocando. Esplora il suo mondo fantastico che ha la forma di un salotto. Dopo aver dato vita alle sue storie, trova riposo sotto il tavolo della sala da pranzo, luogo che per motivi ignoti risulta proibito e inavvicinabile agli adulti. Io amo i ragazzini, quasi quanto amo le bambole e le Barbie, le magliette larghe e i pirati. Li amo così tanto che quando guardo un film o leggo un libro, se c'è un ragazzino che mi piace, subito dico: è il mio fidanzato. Così io lo prenoto e lui diventa il mio fidanzato. Al momento sono 35 fidanzati. A me piace tutto quello che vi ho detto prima, ma mi piace anche quello che i miei genitori dicono sia bello. E quando qualcuno, tipo il papà, propone di fare qualcosa di nuovo in famiglia, non aspetta che gli altri dicano la loro opinione. Perché tanto lui sa che lo farà lo stesso. Quindi io e la mamma abbiamo deciso di comune accordo che quando ci proporrà di fare qualcosa di nuovo, a noi andrà di farla. Non troppo lontano dalla casa in cui siamo stati c'è l'azienda in cui lavora il signor Darling, il padre di Wendy, un uomo di eleganza e professionalità, un lavoratore di qualità, di qualità, di qualità, un professionista appassionato al lavoro che fa. Cari colleghi, dopo un'attenta analisi ho deciso che il provvedimento di quest'estate sarà il mare, la spiaggia, perché niente è meglio del mare e della spiaggia. La montagna? Ma chi va in montagna non apprezza i piaceri della vita. Ma scusa, io dico, la spiaggia è forse priva di aria fresca? La spiaggia non ti permette, se vuoi, anche se io lo sconsiglio, di farti una passeggiata sul lungomare? Montagna. Montagna. Montagna ci va chi non riposa, veramente. Chi non è stanco, veramente. Perché non ha lavorato, evidentemente. Poi, a mare il telefono prende e se mi arriva una mail io posso rispondere facilmente. Posso chiamare la segretaria, che anche se in vacanza risponde sempre, come me. Io rispondo sempre. Poi noi mica andiamo nelle spiaggette libere dove c'è gente. No, noi andiamo nei lidi. E che lidi, dove c'è comunque gente, ma che gente! Nei lidi puoi riposare, puoi sdraiarti senza innervosirti perché non trovi posto, puoi incontrare i tuoi colleghi che anche loro sono in vacanza e se per caso devi discutere di qualche problemino aziendale, non c'è bisogno di chiamarli perché li hai davanti e chiacchieri con loro del ristorante dove andare alla sera e di quante settimane ci sono alla fine delle ferie e di cosa prevedono le statistiche di settembre. In poche parole, ai lidi puoi lavorare. Allora, sabbia, granelli di sabbia, no, non proprio sabbia, sassolini piccoli. Piccolissimi. Ah, pungono. Non è piacevole per niente. Meglio buttarsi in acqua. Corsetta salterina. 3, 2, 1. Giù. Su. Giù. Perfetto. Sto morendo. Niente panico. Basta muoversi. Sono solo 40 secondi di apnea. Bevo acqua e il sale va tutto nelle narici e non vedo bene. E chi vuoi che veda bene con gli occhi pieni di acqua? Salata per giunta! Appare l'ombra. Comunque non ho intenzione di lasciarci la pelle. Vado incontro a qualcosa. Vado incontro a qualcuno. Vado incontro a un'entità strana. Non ti lascerò da sola ad annaspare nel blu. Forza, una bracciata verso di me. Su, e un'altra. E un'altra ancora. E scalcia l'acqua. E prendi la schiaffi. E vai giù. E ingoi l'acqua. E ancora uno sforzo. E nuoti! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Stiamo nuotando! Scusa, ma stiamo nuotando? Noi! Ma cosa sei? Cosa sei? Cosa sei tu? Sei la mia coscienza. Finalmente! Adesso non sei più un animale della terra. Sei un animale dell'acqua. Devi solo imparare a volare. Sarai un animale del mondo. E chi ti ferma più? Questo è solo l'inizio di una nuova era. Proverai altre volte questa sensazione. Questa sensazione di morte, vorrei dire. Perché io non ho alcuna intenzione di ritornare. E ci vedremo di nuovo. Crolleranno i muri e io sarò sempre lì dietro quel muro. Se non fosse stato per te, è colpa tua. Il mio buon senso non mi avrebbe mai gettato verso una morte certa. Bel modo di ringraziare colei che ti ha portato alla conoscenza. La prossima volta rimani sulla spiaggia a saltellare sul posto. Goditi i sassolini appuntiti. Ah, devo arrivare alla spiaggia, così mi distrai. Ma guardati, ti muovi già come una piccola tartarughina. Che carina, impari così in fretta. Forza, una bracciata con il braccio destro e contemporaneamente muovi anche i piedi. Una bracciata con il braccio sinistro e contemporaneamente muovi anche i piedi. Facciamo progressi. Terra! tocco. Sono viva, viva, perfetto. Tocco i sassolini. Fastidiosi come li ricordavo i sassolini, ma col cavolo che mi allontano da questi sassolini fastidiosi. Che bello. Che bello. Che bello è stato galleggiare sull'acqua. Allora? Hai visto? Certo, adesso non ti conviene rispondermi. Ci sei? Quella strana entità era sparita nel nulla. E perché io avevo la sensazione che fosse ancora con me? Dietro di me? Il ticchettio della vita torna a ticchettare e Wendy, dopo aver salutato il mare e la spiaggia, pensa di tornare alla sua vecchia vita e invece si trova da sola in un luogo ameno, con gente che non conosce. Dove sono finiti i suoi genitori? Dove sono finiti gli adulti? Sono stati rapiti? Sono tutti bambini che non ha mai visto. Una stanza piena di tavoli e sedie e lei non sa dove sedersi. Scusa, dove siamo? Potresti per favore dirmi dove ci troviamo? Ehi, scusa, shh! Edoardo, detto poi denti da castoro, mi guarda, mi zittisce e mi dice: dove credi di essere? All'asilo? Torna al tuo posto! Da quel momento i giochi non erano più la stessa cosa. L'ora d'aria era l'unico momento di relax. Era l'unico momento di relax se c'era la pasta che ti piaceva. Perché se non c'era la pasta che ti piaceva, allora bisognava agire d'astuzia. Bisognava andare verso la maestra e dirle: maestra, mi sento poco bene. E sperare che ti creda. Una volta ebbi la punizione che meritavo. Quel giorno davano la pasta con le lenticchie. Io non gradisco la pasta con le lenticchie, non la gradisco proprio per niente. Quindi andai dalla maestra e le dissi: maestra, mi sento poco. Wendy sputa qualcosa. Quel qualcosa non è una lenticchia. Un incisivo! Mi è caduto un incisivo! Ma com'è potuto succedere? Nessuno ti prepara a tutto questo. Gli adulti si limitano a dire: una volta che il fatto è avvenuto, è normale, vuol dire che stai crescendo. Quindi non solo perdevo i denti, mi ricrescevano pure. E dov'è la coerenza in tutto questo? Perché devi fare cadere una cosa se tanto poi deve ricrescere? Dai, che il topo dei denti entra nel letto e ti porta la moneta. Cosa? Ma io non mi fido, ma siamo impazziti. Ma non abbiamo animali in casa perché lasciano i peli e dovrei accogliere un topo che neanche conosco. Con una moneta, quindi accettare una cosa da uno sconosciuto. Non posso parlare con il panettiere qui accanto, non posso mangiare la terra quando gioco a mangia la terra e dovrei accettare una cosa da uno che chissà dove mette le mani. No, non esiste. Ma poi, dato che ne dobbiamo parlare, perché vuoi il mio dente? Che ci fai? A che ti serve? Io ho studiato che delle persone uccidono gli elefanti e con le zanne ci fanno i pianoforti. I pianoforti! Noi suoniamo sulle zanne degli elefanti e se anziché prendermi soltanto un dente me li toglie tutti? No, non esiste. Ma come fa una persona a concentrarsi sulla vita se intanto allunga, perde denti, perde pezzi di pelle dalla testa e... Ah, no... Non mi è ancora spuntata la forfora. Scusate, quello succederà alle medie. Mi sono confusa. La signora Darling è appoggiata al bracciolo del divano e parla al telefono. È curva su se stessa. È preoccupata. Se non l'avessimo vista prima, sembrerebbe un agente della CIA. Sta crescendo. A volte mi preoccupa. Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo, sì, sì, no. No, no, non lo so, è strana. Senti, ma anche a tua figlia sta spuntando la forfora? No? Ma che strano, forse non va bene lo shampoo. No, no, no, no, no, no. Puntine ancora no, anche se... sta diventando uno Yeti. Un piccolo Yeti! Che brutti che si è a quell'età, eh? No, tua figlia è bellissima. Non lo so, è come se non avesse più un'anima. Non, non, non, non sorride. Beh, mangia, fa la pipì e la cacca, sì, sì, ancora negli stessi momenti della giornata, come quando era piccola. E poi è giudiziosa, fa le cose per bene. E poi si vede che diventerà bella. No, non perché figlia mia, ma si vede. Pensa che quando siamo andati dal medico, lui ha detto, testuali parole, signora, è sana come un pesce, ossa forti, spalle larghe, capisci? Forse c'è qualche speranza di avere una persona alta in famiglia. E a quel punto vedi, vedi, vedi come le andranno dietro tutti i ragazzini. Wendy è un po' diversa dalle altre volte. È più alta, indossa una felpa con il cappuccio. Noi non lo vediamo, ma le è spuntata la forfora. Esce di casa senza salutare i suoi genitori e va da sola verso la scuola. All'ingresso una moltitudine di neoadolescenti. Si accalca per entrare a scuola, cerca di entrare, si immette nella folla, qualcuno le pesta un piede, le scende il cappuccio, i capelli le si incastrano nello zaino di qualcuno, cerca di liberarsi dalla morsa di quello zaino che le strappa le ciocche, si libera, ma appena si volta si ritrova una gomitata in piena faccia proprio sul tetto nasale, si fa strada e alla fine ci riesce. Entra a scuola, sale le scale correndo, cercando di non farsi raggiungere. Arriva davanti alla porta della classe. Io non capisco perché ogni giorno mi devo sottoporre a questa tortura. Sono già 8 anni di obbligo civile. Lo Stato dovrebbe ripagarmi i danni psicologici, che sono tanti. Ma che spingono, ma che fretta hanno di entrare, che è tutta questa voglia? Io non sopporto i ragazzini, non li gradisco proprio per niente. Sono così poco a modo, puzzano, sono infettati da pustole rosse, anche sulla schiena. Sì, sì, anche sulla schiena. No, io no, questa è la prova che non sono un ragazzino. E poi non sono sgarbata. Nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi che tratta gli insegnanti come fossero pupazzi. Ma in particolar modo io davvero non riesco a tollerare... Sì, sì, sì, certo, professoressa, abbiamo studiato, come no, assolutamente. E quindi siamo pronti per l'interrogazione. Non è vero. E nel momento in cui dico di essere preparata, mi immergo nel quaderno a quadri pieno di formule incomprensibili. Guardo il quaderno. Entro dentro il quaderno. Io sono il quaderno, ma nella mia testa non c'è una di quelle formule scritte qua dentro. Avete sentito? Una risata, una piccola, persistente risata, ma io la sento forte. No, no, no, non c'è bisogno che mi giro. Io so benissimo da chi proviene. Peter, detto lingua lunga. Solamente dopo ho scoperto perché. Attenzione, Wendy. Attenzione. Pericolo figura di merda. Oh, figura di merda tua, meglio non lo dice. Stai zitto, stai zitto, stai zitto. Guarda che così guarda me la professoressa. Che cosa stai facendo? Io non lo sopporto. Io lo odio, lo detesto, lo detesto. Allora sai che faccio? Gliene dico 4. Gliene dico 3. Gliene dico 2. Ehi, tu! Così. Ciao. No, no, no, no, no. No, no, no. Una defiance. Allora. lei. Tu. I didn't realize that my life would change forever. No, no, no, no, no, no, tu lo odi, lo odi, ricordalo, lo odi, lo odi. Ce la puoi fare, concentrati, fatto corso di teatro, su. Ehi tu, biondino! Saw you standing there, I didn't know I'd care. There's something special in the air. Con quegli occhi ambrati, belli devo dire, belli, davvero. Oh, una fossetta sulla guancia destra, ma non su quella sinistra. Buffo ma bello, collo lungo, con un gran bel pomo d'Adamo. Spalle larghe, imponenti, e quella maglietta hard rock caffè. Che stile! Braccia con una vena che pulsa, e quelle maniche, e quel gomito che, e la tibia proprio che. Ma vai canottaggio! Ma cosa sto dicendo? Professoressa, io non stavo parlando assolutamente, che stiamo scherzando, io non parlo mai. Io discutevo sul fenomeno della termodinamica, dell'entropia, dell'entolpia, verità, io starnutisco parlando. È un problema di famiglia, ce l'abbiamo tutti quanti, anche se è la cosa più rara del mondo. Anche a lei capita la stessa cosa, incredibile questa cosa. Mi batte il cuore a mille, mi esplode dal petto, il detto delle farfalle nello stomaco, è vero. È tutto vero che ha scoperto questa cosa, è stato un genio. Io sono qui che ti sto guardando in faccia, ma non ti sto guardando in faccia. Guardami mentre io cerco di guardarti in faccia, ma non ti sto guardando in faccia. Professoressa, io devo andare in bagno. Sì, sì, veloce, veloce. Veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E chi è? Sono tornata! Wendy è seduta in bagno e si guarda le mutande. No! E anche questa ce la siamo tolta, anche se teoricamente è appena cominciata. Che cosa è successo? Vuoi una spiegazione biologica o passiamo direttamente alle conseguenze che questa cosa prenderà nella tua vita? È un disastro, è un disastro. Esagerata, nessuno è mai morto per questo. Sto morendo. Nessuno è mai morto per questo. E che faccio adesso? Come tutti, ti alzi, vivi e fingi un sorriso anche quando ti sentirai di voler fare uno sterminio di massa. Si chiama salvare le apparenze. Sono seduta su un bagno pubblico, che schifo. Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Ehi, tranquilla, è solo la crescita. È una cosa normale, necessaria per l'evoluzione della tua specie. Di tutte le specie, a dire il vero. Ecco, lo sapevo che sarei finita a dare nozioni di biologia. Wendy esce dal bagno e si guarda allo specchio. Si osserva, forse per la prima volta nella sua vita, alle tette, delle mini tette, delle pere tette. Guarda ancora più attentamente, la sua faccia non è liscia. Le è venuta la varicella. Da quando in qua i peli sotto il naso? Le sta crescendo la barba. Per la prima volta si rende conto di essere uguale a suo padre. Sente puzza. La fognatura del bagno, no, no, no, no, è più vicino, troppo vicino. Sono le sue ascelle. E mentre sente quel forte odore di asiago, perde sangue. Faccio schifo. Ehi! Ciao Peter! Sì, tutto bene? Che ci fai qua? Certo, siamo a scuola. Io strana, ma quando mai? Che dici? Ma proprio guarda, non te ne tieni una, eh? Oddio! Si è accorto che c'è la puzza sotto le ascelle! Sono andata in bagno a fumarmi una sigaretta. Ah, che cosa? Ho i baffi, ho i baffi, ho i baffi! Da quanto fumo? Da un po'. Faccio schifo. È che non ero preparata e quindi mi sono nascosta in bagno. Ah, lo fai anche tu. Ma come sei? quindi, per la prima volta, si accorge che Peter ha un pene. E per la prima volta nella sua vita, la cosa le provoca interesse. Basta! No, io devo andare. Ho un sacco di cose da fare, ho un torneo di scacchi. Devo andare. No, ciao. No, io non faccio niente questa sera perché, cioè, in realtà ho un impegno, ma sai come sono fatti, gli impegni saltano, quindi... Vabbè, allora ci sentiamo dopo. Va bene, ok, d'accordo. Va. Ciao. Mi ha chiesto di uscire. Sai che un giorno ti tocca, però quando ti tocca non ci credi. Nessuna serie Netflix sarà mai più esplicativa della tua vita. Se questo è crescere, ma sì, cazzo, ce la posso fare. Wendy comincia a ballare togliendosi i vestiti. È libera nella sua stanza. Non c'è nessuno a parte lei. Sono lei e l'ombra. In questo momento vuole giocare col suo corpo. Vuole giocare con se stessa. Si sente bene e felice. Nei momenti di euforia, Wendy e l'ombra diventano quasi la stessa cosa. Wendy cerca dei nuovi abiti, ma non li trova subito. E l'ombra, che da brava consigliera, le suggerisce a suo modo cosa mettere. Wendy non smette di ballare adesso che è in posto decisamente più grande. C'è gente attorno a lei, la musica diventa più forte. Wendy saluta, si sistema il tubino nuovo, si guarda in giro e alla fine lo trova. Peter, più bello che mai. Ehi! Ciao! Sì, sì, sono riuscita a venire! Da bere? Un chinotto! Boh, tu che cosa fai dopo? Conosci un posto dove le stelle sono così vicine agli scogli che ti sembra di volare nel cielo? Certo! E dopo mi ci porti, vero? Wendy si ferma. Peter e Wendy sono pericolosamente vicini. Wendy, non fare cazzate. Cazzo, mi sudano le mani. Mi sudano tantissimo le mani. Non lo posso toccare con le mani così sudate. Però che bel sorriso. Mi sorride. Gli si crea una fossetta quando sorride solo sulla guancia destra. Ok, Wendy, buttati. 3, 2, 1. Adesso l'ombra cambia ruolo e interpreta la notte che cala sui due innamorati. Ciò che accade rimane mistero, mistero e immaginazione. Magicamente arriva il giorno. Buongiorno. Dove vai? Scusa, non ti andrebbe di fare qualcosa con me? Davvero? Quindi non ti dà fastidio se sto con te? Ah, non ti cambia nulla. Ok, senti, a titolo informativo, cioè, sto facendo una ricerca. Se tu oggi non uscissi più, se io non uscissi più con te, tu ti ricorderesti di me? Ora, non è il tuo caso, tu mi sembri una persona rispettabilissima, però la gente succede che prende, fa e poi sparisce. Sarebbe curioso, incredibile, sparire prima ancora di apparire. Cioè, non lo so, i superpoteri. Potremmo fare tantissime cose, potremmo parlare, potremmo chiacchierare, potremmo mangiarci una pizza, potremmo stare in... Capisco. Va bene. Allora, vengo dopo se ne ho voglia. Non credo che ne avrò voglia. Non credo che ne avrò voglia. Ciao. Complimenti! È andata! È andata! L'abbiamo data! No, no, no, no! Noi non l'abbiamo data! Questa non vale! Questa non vale niente! Assolutamente nulla! E come se vale, cara mia! È andata! È andata! È andata! Conosco un posto dove le stelle sono così vicine agli scogli. Ti sembra di volare? Avanti, ci crederebbe un idiota! Sono un idiota. Ma perché sono venuta qua? Non potevo restare da sola e non vedere nessuno? Beh, ci sei ritornata! E comunque è andata! È andata, è andata! Sì, è andata, ma io non pensavo che sarebbe andata in questo modo. Non mi aspettavo che sarebbe andata in questo modo, che soffrivo così tanto per una persona. Non soffrirò mai più nella mia vita per una persona! Non soffrirò mai più nella mia vita per una persona! Lo hai già fatto! Senti, io non vivo di rimorsi, ok? Ci sono delle conoscenze piacevoli e spiacevoli. Questa è stata una cosa piacevole, ma usa e getta. Domani me lo sarò dimenticata. Però l'hai fatto! Ma non significa nulla, è una cosa normale, necessaria per l'evoluzione l'hai della fatto, specie. L'hai fatto, di tutte le specie, fatto, a dire la verità. Fatto. Domani io me lo sarò perché già dimenticato. Fatto? Tanto perché è una cosa che ho deciso adesso? Io. Non potevi mi importa aspettare. Quello che pensano gli altri. Capito? Ormai lo hai fatto. Ti rendi conto di cosa hai fatto? È una persona che tra poco non ti rendi mai conto più. Di quello che hai fatto? È una persona alla quale forse tu vuoi bene, aspettare. Ma sicuramente dovevi aspettare. Come hai potuto farlo? E ormai lo hai fatto. Se avessi aspettato, non se ne sarebbe andato. Senti, io sono grande adesso, va bene? Sono abbastanza grande, ho praticamente la patente, mi manca il diritto di voto. Anzi, una persona come me dovrebbe già votare perché so affrontare tutti i problemi con... Basta! Stai zitta! Wendy, devi crescere, sono stanca di te. Ti sei fatta abbindolare dal primo che ti ha dato un minimo di attenzione. Un ragazzino imbecille che incontra una ragazzina imbecille! Vai in giro a raccontare questa avventura. Tutti ti giudicheranno. Ah no, scusa, non tutti. Ad alcuni farai tenerezza. Ma guarda con chi sto parlando. Con una ragazzina stupida che non sa neanche come stare al mondo. Perché sei brutta. Sei brutta, oltre a non avere nulla di speciale. Sei una bambina che gioca a indossare le scarpe della mamma. E allora torna a giocare. Vai a giocare con le bambole. Siamo a casa di Wendy. La signora Darling e il signor Darling entrano, ma sembra che vedano cose diverse. Tutto è disordinato, vestiti lanciati per aria, scarpe buttate a terra, trucchi lasciati davanti allo specchio dell'ingresso. Il signor Darling è come se non vedesse nulla. Ha troppo da fare per accorgersi di cosa sta intorno a lui. I mille impegni, le scadenze, si mette al telefono. La signora Darling, invece, si mette a fare ordine. Che cosa ti devo dire? A me preoccupa! Io non so più che cosa pensare, eh? L'altra volta mi ha fatto proprio arrabbiare. Non ci si comporta mica così con la propria madre? Non si sbatte la porta in faccia alla propria madre? Non si rubano le cose senza dirlo alla propria madre? E adesso non la vedo uscire da settimane, capisci? Settimane. Come farà a mangiare e fare la cacca e la pipì sempre negli stessi momenti della giornata, capisci? E poi che cosa le devo dire? Se le urli, cioè se le dici qualcosa, si arrabbia perché le dici qualcosa. Se non le dici niente, allora si arrabbia e dice: a voi non importa nulla di me. A me! Qua ci vogliono dei provvedimenti, eh? Che dici? Non dice. Tesoro, potresti stare attento quando uno ti parla? Ah, io mi devo calmare. Io mi devo calmare. Allora, dato che io mi devo calmare e tu mi sembri fin troppo tranquillo, allora vai a vedere tu che cosa ha Wendy. Non lo so, metti che si è fidanzata. Metti che soffre per amore. Metti che... Oh, metti che... Hai capito? No, non hai capito? Che... E non farti mettere le mani alle orecchie è una cosa normale, l'ho fatto io, l'hai fatto tu, l'hanno fatto loro, insomma. Vuol dire che sta crescendo. Oh mio Dio, sta crescendo. Ci si dimentica di crescere mentre si cresce. E ci si sveglia 10 anni più vecchi. Ah! Una ruga! No, tu stai benissimo. Stagioni come il formaggio. E che ti hanno surgelato? Dove vai? Che fai? Torna indietro. Che cosa? Ah, tu devi lavorare. Gioia mia, tu devi lavorare. Perché io non devo lavorare? No, io i soldi mi riesco così, dal cappello. Gioia, ma tu hai bisogno di un abbraccio? Hai bisogno di una pacca sulla spalla? Hai bisogno di una tisana? A me non importa se devi lavorare. Impara a gestire due cose contemporaneamente come tutti gli adulti di questo mondo. Ma cresci un po'. Non piangere adesso. Facciamo così. Tu vai a parlare con quel mostro che sputa insulti che tu chiami figlia e io poi ti porto a cena fuori e poi torniamo a casa presto, ok? Affare fatto? Benissimo. Allora, a stasera. Nel frattempo, nella camera di Wendy c'è disordine, sia fuori che dentro. Ma in quel momento sembra non importare. Un cellulare squilla e Wendy trova il coraggio di rispondere. Pronto? Sì, scusa, è che i miei urlavano e non riuscivo a sentire. Ascolta, Peter, io ho un po' paura di dire questa cosa. Perché non mi voglio dimenticare di te. E quando una persona non vede più un'altra persona, finisce che se la dimentica. Anche se gli ha voluto tanto bene, io ho paura. No, io non voglio decidere questa cosa. Sì, vorrei che decidessero gli altri per me, come sempre. Io già immagino a domani mi viene da piangere. Non... Aspetta. Io non lo voglio fare. Io mi rifiuto. Perché? Perché dobbiamo conoscere le persone se poi nella nostra vita non ci sono più? Sia chiaro, non è che mi aspettavo che sarebbe durata per sempre. Però sarebbe stato bello tenersi per mano, magari andando all'università, insieme, e dirsi a dopo. E poi raccontarsi com'è andata la lezione. E raccontarsi le proprie vite separate, ma crescere insieme. Ma solo per un po', per un altro po'. Ma in caso io posso tornare indietro, se cambio idea, posso rivederti un'altra volta. Magari non subito, magari tra 4 mesi, tra 5 anni, va bene anche 10. E ti posso sorridere quando ci rivedremo. E ti posso abbracciare. Allora, tra 10 anni, ci rivediamo e tu ti metti la maglietta Hard Rock Café. Chissà se mi farà impazzire ancora quella fossetta. Va bene. Chiudo, eh? Ciao. La signora Darling è appena uscita. Il signor Darling è rimasto solo. È confuso. Non sa da dove cominciare. Ma perché? Se c'è qualcosa che non va improvvisamente, è solo mia figlia! Che cosa ti devo dire? È un'età difficile la sua anche per noi. E se ha le mestruazioni, che cosa devo dire? Ti capisco. Ti comprendo. È poco credibile come cosa. È poco seria come cosa. E io vengo sempre preso sul serio. Lo dicono tutti al lavoro. Hai una domanda? Vai dal signor Darling. Lui sì che è un lavoratore. Di qualità, di qualità, di qualità. Io così perdo la mia qualità. La qualità. E se mi urla addosso non è colpa mia. Tanto io non riesco a dire mai niente in questa casa. E allora che cosa faccio? Busso e non dico niente. Una parola, niente. Il signor Darling bussa. Wendy? Sono a casa? Wendy, apri la porta, per favore. Wendy, io non voglio ripetertelo. Wendy, ci sei? Ascolta, la mamma dice che c'è qualcosa che non va. E se la mamma dice che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Quindi ora tu mi apri la porta e mi dici cosa che c'è che non va. Wendy, ti prego, la mamma poi si arrabbia. Wendy, siamo un po' preoccupati per te. Non ci fa piacere vederti così. Vuoi parlare un po' con me? E allora parlo io. Al mondo non c'è nessuno come mia figlia. Tu sei particolare, tu sei speciale. Sei speciale per me, sei speciale per la mamma, sei speciale per chiunque. Wendy, davvero, che cosa è successo? Io non ho più... Cioè, hai fatto degli errori, hai fatto degli sbagli. Li devi fare a quest'età, perché se li fai alla mia... Tu devi mutare, devi cambiare. Poi pensa che noia se facessimo sempre le stesse cose. Nessuno farebbe nulla di nuovo. Vedremmo sempre lo stesso programma in televisione. Andremo sempre allo stesso ristorante. Andremo sempre alla stessa spiaggia. La montagna non mi avrà mai. Ecco, la vita è piena di cose che ci fanno soffrire, ma non per questo sono sbagliate. A volte sono solo diverse da come ci aspettavamo. Ma tu non devi avere paura di soffrire, Wendy. Non devi avere paura di vivere. Scopri il mondo più che puoi e non smetterai mai di crescere. Per questo io sono felice di essere tuo padre, perché mi ricordi di crescere ogni giorno e mi fai pensare chissà che cosa racconterò di nuovo a Wendy tornando a casa. A proposito, ieri sera mi sono guardata il Signore degli Anelli per la quarta volta in un mese. Sì, lo so, sono un abitudinario. Non giudicarmi, che ci pensa già abbastanza la mamma. Se c'è qualcosa di buono in questo mondo, è giusto combattere per questo. Bella frase, eh? È bravo Peter Jackson, è bravo! Comunque, tu sei la cosa più buona per me in questo mondo. E poi, tra un po', te lo sarei anche dimenticato, ci saranno altri problemi. Ricorda le mie parole, mia dolce Wendy. I dolori passano sempre, perché poi ne arrivano altri. Chissà come sarai tra qualche settimana, chissà come sarai tra qualche mese, chissà come sarai da qua ad un anno. Chissà se Wendy ha ascoltato le parole di suo padre. O già da prima è sgattaiolata via di casa. O forse sono state le parole del papà a dargli il coraggio di prendere di nascosto le chiavi, di infilarsi in macchina e di partire. Per dove? Chissà. Nella sua testa iniziano i dubbi della vita. Riverberano le voci di tutte le persone che già da un po' hanno cominciato a farle delle domande e ad avere delle aspettative. E si chiedono, e le chiedono, che persona vuole diventare. Perché il tempo non si ferma. È meglio prima che dopo. Bisogna fare una scelta. Cosa vuoi da fare da grande, Wendy? Io sono felice qualunque cosa decidi di fare. Certo, sarà l'università, di certo una facoltà. Che la possa dare un futuro sicuro, un sogno, certo, certo, i sogni. Non vedo sogni, ma solide realtà. Un futuro di qualità, di qualità, di qualità. Quale sarà? Quale sarà? Quale sarà? È un minuto, è un minuto, è un minuto! La freccia, io devo capire dove mettere le mani, devo tenere i piedi ben saldi a terra, con gli occhi ben aperti verso l'orizzonte, devo... Perfetto, piove. Scusate, qualcuno può dire chi ha deciso che la macchina è il principale mezzo di locomozione? Ah! Signora, le strisce pedonali, ma esisteranno per un motivo oppure no? Io stavo per uccidere una donna. Va bene, devo crescere? D'accordo. Allora accettiamo questo destino. Questo destino assolutamente non richiesto, ma da questo momento a modo mio. E siamo qui in diretta per voi con la nostra neopatentata Wendy, la quale si trova all'incrocio della vita, un bivio difficile da attraversare, destra o sinistra, lettere o ingegneria, disoccupata o disagiata, che poi chi è cosa? Senti, non ti ci mettere anche tu, che questa è una situazione complicata. Allora, cosa abbiamo deciso? Dove siamo diretti? Cosa stiamo facendo? Wendy, quella è l'autostrada. Wendy, quella è l'autostrada. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Voglio andare in autostrada. Ma è notte, piove. Non puoi prendere la Palermo-Catania. Il servizio autostradale non funziona. Oh, sto per mettere la quarta. La quarta? Senza papà? Oh mio Dio, siamo a 100 all'ora. Siamo a 100 all'ora. Non è il momento di prendere decisioni azzardate. Quello è un tir, quello è un tir. Addio, addio. Sono viva. Tu sei pazza. Nessuno deciderà più della nostra vita. Sì, certo, hai vinto, sei coraggiosa. Adesso basta però, non mi piace questo gioco. Ma quale gioco? Da questo momento non si gioca più. Non c'è più, professoressa, devo andare in bagno. Non puoi più chiedere il permesso. Devi fare e basta. Destra o sinistra, sì o no. Devi fare una scelta, devi farla tu. E sperare che sia quella giusta. La scelta giusta, a mio modesto parere, è quella di fare un'inversione e tornare indietro. Io non posso tornare indietro. Da questo momento posso andare solo avanti. E quindi da ora in rischio. Senza punto di arrivo, senza segnali stradali, senza un percorso ben segnato. Decidiamo noi cosa essere e chi essere. Mi fai paura. Perfetto, te ne farò sempre di più. Ma chi sei tu? Io sono la vita, noi siamo la vita, noi siamo il corpo che cambia, siamo le scelte degli altri e siamo la scelta di accettarlo. Siamo la vita e mi piace. Va bene, va bene, va bene, anche se il mondo ti porta giù e poi su, e poi giù e poi su. Su, su, su, io vado su, non solo giù. Non vedo nulla. E chi vuoi che veda bene con la pioggia battente? Forza, ancora uno sforzo, ancora uno sforzo. Ma che dico? Ancora mille sforzi! Perfetto! È finita la benzina! Grazie. Dicevo, sono stati un pubblico bellissimo, davvero. Sì, bravissima. Grazie. Ok. Bravissima. Grazie. Io farei un altro giro di applausi, sei stata veramente brava. Allora, adesso facciamo questa postazione. No, lo stacco io. Grazie più di me. Perché ci ho sbattuto la faccia di bottana? Allora, ti faccio accomodare in queste meravigliose seggioline. Grazie. Non vedo l'ora. Cazzo, bravissima, mi sono divertita tantissimo. Tolgo questo. Sì, ormai è casa mia. Giusto, è un po' la vibe di Exalge. Cavo. Come stai? Bene, adesso che sono seduta. Fare una lettura così è difficilissimo. Bellissimo, veramente ha reso benissimo. Mi sono divertita tantissimo, spero anche voi. Grazie. Allora, comincerei chiedendoti un po' di presentarti e soprattutto, diciamo, il tuo percorso teatrale, perché quando ci siamo conosciute mi hai raccontato che appunto non hai iniziato come drammaturga, ma appunto come attrice, e quindi insomma mi interessa un po' sapere come sei approdata alla scrittura, perché diciamo un po' come vivi anche un po' la tua esperienza dalla tua formazione ad adesso. Allora, intanto salve, sono Alba Sofivella, sono un'attrice e mi sono diplomata a Siracusa, all'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa nel 2019, e poi mi sono formata, cioè perfezionata a Parma al Teatro 2. E tra l'altro il terzo anno di Accademia c'era un provino in cui dovevamo raccontare un rapporto, mi sa, con una figura familiare, il padre, mi sa. E io avevo scritto questa cosa per... cioè si potevano scegliere dei testi anche già scritti. E ho pensato, diciamo, di raccontare la volta in cui ho imparato a nuotare. Ed è stato traumatico. Perché avevo questo, cioè mio padre, che tutte le volte lui mi butta in acqua, cioè comunque un uomo siciliano, terapia d'urto, mi butta in acqua senza che io toccassi il fondo, mi butta in acqua, si butta anche lui e mi dice: forza, una bracciata verso di me, un'altra, forza, forza, forza. E io annaspavo nel... E quella per me è stata... quella per me è la metafora della crescita, quando tu non sai cosa stai facendo ma stai andando avanti, e c'è anche la fortuna di avere una persona davanti a te che ti incita, non sempre succede, però quella è stata un'immagine che mi è rimasta, e sono andata poi alla ricerca di altre immagini che per me rappresentassero la crescita. Quindi ho fatto questo provino che ho mandato il giorno dopo della scadenza, sono un genio, e, però è stata comunque un'occasione, perché da lì ho detto: ah, questa cosa si può sviluppare, e sono andata avanti con la scrittura. Però non ero neanche mai stata una particolarmente brava a scrivere, quindi mi sono trovata molto bene con la scrittura che poi diventava parola. Cioè questo è stato subito un aggancio per me. Ma e hai sentito un'esigenza particolare da, diciamo, dal passare a, dal performare, quindi dal, diciamo, presentare dei testi di altri, all'esigenza magari di scrivere delle cose tue? O... Sì, devo dire di sì. La scrittura mi dà una libertà che quando sono solo attrice non ho. E sono due piaceri molto diversi, non è una cosa negativa. Soltanto che con la scrittura davvero posso entrare nel mio mondo e io stessa mi posso mettere a servizio di quello che sto scrivendo. Quindi questa libertà assoluta di creare mondi, appunto, di quando tra l'altro eravamo piccoli, quindi il tuo mondo è il salotto, è una cosa che mi ha galvanizzato quando ho scritto. È stato un anno di lavoro in cui mi sono messa lì a scrivere, a creare, a tornare indietro, a metterlo anche molto in scena prima che finisse, quindi prendevo dei poveri disgraziati che mi potessero ascoltare. Una volta ho fatto anche una videochiamata con i miei amici e gli ho detto: l'ascoltate. Ed è andata così. Quindi sicuramente la scrittura, per quanto mi riguarda, è un mondo creativo molto più libero, perché parte proprio dal foglio bianco, quindi puoi dare libero sfoggio alla tua creatività. È follia. E secondo te, diciamo, a livello di tuo percorso anche di formazione, c'è un sistema che lo sostiene? Cioè, come dire, tu appunto hai detto: mi sono approcciata al teatro facendo l'attrice. Mm-hmm. E questo tuo invece switch, diciamo, anche alla scrittura è avvenuto perché ti sei sentita in un sistema anche di formazione che ti ha sostenuta in questo senso? Cioè, lo dico perché anche la scelta di aver insieme a Martina, che vabbè purtroppo stasera non c'è perché è malata, ma è... Salutiamo. Lei la ideatrice di questo podcast. ci siamo molto interrogate su questo tema della drammaturgia, della scrittura, anche proprio perché è una cosa forse un po' meno valorizzata proprio anche dal sistema teatrale, del cinema, eccetera. Invece mi sembra che ci sia molto un desiderio. No, di... brava, cioè in realtà devo dire ringrazio la disoccupazione, perché se io fossi stata un'attrice strachiamata, quale sono, non avrei mai scritto Wendy, mai, non l'avrei mai fatto, non... quindi in realtà è stato proprio bello avere avuto questo tempo libero che probabilmente non mi sarei mai concessa, non avrei mai scoperto questo piacere. Poi ovviamente chissà qual è il futuro, però posso dire ad oggi che quello è stato un piacere immenso scrivere, e quindi, ed è per questo che secondo me molti attori scrivono, perché hanno la possibilità di dire: oh, senti, se non mi chiami tu me lo faccio io. E vabbè, è giusto, cioè viva, questa è proprio la, secondo me è un'opportunità per gli attori di diventare finalmente un fulcro importante anche a livello creativo. Da chi parte questa necessità? Parte dall'attore che poi si mette in scena e si prende la responsabilità di quello che dice. Quindi questa cosa qua non c'avevo, cioè non me la ricordavo, tra l'altro, questa cosa qui. E quindi in realtà è vero, non c'è spazio, però dall'altra parte c'è spazio. Cioè, se la vedi, te lo devi creare, sì, certo. Sì, sì, assolutamente. Cioè, non... Quindi viva Cabaret Extra. Viva Cabaret Extra. Grazie. Allora, allora parliamo appunto del tuo testo, che appunto mi dicevi essere il tuo primo testo. Sì. E quindi il tuo primo approccio alla scrittura, se vuoi un po' raccontarci com'è nata questa cosa. Mi sembra che sia chiaro che il tema sia la crescita, e quindi non so se è un tema particolare per te o insomma il motivo per cui hai scelto anche di scrivere di questa cosa. Allora, come tutti i primogeniti, sto per dire una cosa terribile, non sono sempre tutti voluti subito. Oh, scusate. Concordo. Quindi in realtà è stata una cosa strana, perché quando ho cominciato a scrivere questi momenti, ho capito che mi avrebbe aiutato cercare delle immagini universali. Cioè proprio mi sono andata a cercare, ok, va bene, per l'infanzia ho trovato questa, anche se poi c'è anche l'incisivo, che perdi, no? Cioè che comunque è un trauma. Cioè io poi ci penso razionalmente dopo e dico: ma cioè è brutto, non è che è bella una cosa del genere, cioè è un po' un colpo. Quindi andare alla ricerca di questi universali che mi potessero aiutare a raccontare questa storia, che però per me, cioè la mia necessità era che non fosse autobiografico. Cioè io non ho scritto cose autobiografiche, quasi nessuna in realtà è una storia che viene dal mio passato, dalla mia infanzia, adolescenza, bla bla bla. Quindi sono andata proprio alla ricerca di quali sono quei punti nevralgici che ci appartengono e che posso trovare questo minimo comune denominatore per quante più persone possibili. E sono andata alla ricerca proprio di questo. Ed è stato strano, perché all'infanzia è stato anche facile trovare tante immagini, perché forse sei anche più fantasioso, non lo so, ti rimangono più impresse, non ho idea. L'adolescenza, ma l'immagine dell'adulto è stato difficilissimo da trovare. Cioè l'ho trovata una settimana prima di andare in scena, perché all'inizio Wendy era in nave, tipo su un timone, con il timone in mano, che doveva combattere contro, era molto più poetico, perché non la trovavo questa immagine. Poi parlavo con una mia amica che a un certo punto mi ha detto parlavamo della difficoltà di imparare a guidare. Ed effettivamente la guida è un po' la metafora dell'essere adulti, perché tu hai la responsabilità anche dell'altro. Cioè non sei solo responsabile tu, ma tu con la tua guida puoi mettere a rischio una persona, puoi invece aiutare un'altra persona, perché si è in tanti in questa macchina. E quindi poi ho trovato tutte queste immagini e le ho messe tutte insieme. Questa era la domanda? Ok. Sì, sì. Ok. Ma a livello di proprio appunto approccio alla scrittura, entro un po' più nel merito tecnico della cosa, il fatto di aver scelto di avere un tono ironico o comunque ha un senso, ha un significato, cioè appunto magari la tua prima esperienza, quindi però mi chiedo se c'è anche una scelta specifica del linguaggio che utilizzi. Allora, scelta, cioè volontaria insomma, o se è solo espressione di te? Allora, per esempio io ho scritto un altro testo che non andrà mai in scena perché è troppo difficile, è un trauma. Puoi leggerlo però, qui da noi. Va bene, la prossima volta lo leggo. E, che non è molto, cioè non è per niente divertente, cioè è molto crudo. Anche se devo dire che l'ironia comunque fa proprio parte di me nonostante tutto. Cioè io potrei anche dire che è una scelta razionale, ma in realtà è una bugia, perché l'ironia, forse perché per la mia vita è stata così tanto una salvezza, cioè l'ironia veramente a me personalmente mi ha salvato la vita, più del teatro, più dell'andare in scena. L'ironia mi salva dai momenti di più grande difficoltà, quella risata, quel momento di ah, ok, per poi ritornare di nuovo giù. Quindi l'ironia è adesso una scelta, ma prima no. Cioè adesso per me è la scelta giusta. Cioè per me raccontare le cose con ironia è molto importante. Ma te l'ho chiesto infatti perché tra l'altro questo podcast stesso è nato proprio insieme a Martina, appunto perché lei ha tradotto un testo di Simona Semenic e che è molto irriverente e in qualche modo viene un po' da quella scuola di Sarah Kane, di quelle, la rottura della quarta parete e anche altri ospiti che abbiamo accolto appunto nel podcast, hanno usato tantissimo l'ironia nell'ottica anche di sceglierlo come linguaggio specifico per poter arrivare più facilmente al pubblico parlando di temi molto anche pesanti o comunque difficili, un po' tabù, e mi sento di dire che anche tu in fondo affronti un tema molto complicato e molto contemporaneo del crescere, no? Del diventare grandi in una modalità molto divertente come abbiamo potuto sperimentare. E quindi non so se appunto quando ne abbiamo parlato nelle altre puntate il discorso che è venuto fuori è stato quello di smettere di parlarsi addosso, quindi di smettere di avere un teatro un po' che sia distaccato rispetto al pubblico invece di trovare un modo di entrare in dialogo diretto, quindi alcuni hanno anche proprio fatto degli spettacoli coinvolgendo il pubblico proprio nell'ottica di come dire, creare un teatro che sia più in dialogo e non solo più una forma di intrattenimento. Mm-hmm. Quindi non so se... Eh sì, cioè io dico una cosa molto impopolare, in caso la tagliamo, si può tagliare? Si può, ma dai, no. Cioè che io penso che il teatro non si debba dimenticare che è anche intrattenimento. No, ma scusate. Anzi, Diego Piemontese proprio diceva io sono contento di, come dire, affrontare dei temi anche molto complicati, difficili, attuali, ma il mio obiettivo è quello di divertire il pubblico e anche che, come dire, magari gli stimolo una riflessione su qualcosa, ma la cosa che mi interessa è anche che sì, restino comunque banalmente divertiti o divertite, mm-hmm. Cioè anche perché César Brie in un'intervista dice proprio di, cioè io faccio in modo che il pubblico si apra così io possa infilare la spada. Esatto. E secondo me è una cosa, ma poi queste ovviamente sono cose che uno dice dopo, secondo me mentre scrive, se hai una vena più drammatica o comunque di un'altra natura, è anche brutto snaturalizzarsi al fine di, no, far scattare una risata. Però è efficace secondo me, perché quando si ride tutti insieme c'è più possibilità di ascoltarsi tutti insieme. Cioè le risate, se ci fosse stata solo una persona qui in mezzo a voi, avrebbe fatto al massimo fine, cioè non avrebbe riso, o comunque ogni tanto gli sarebbe uscita questa risata ma era isolata. Invece la risata è bellissima perché veramente coinvolge tutti e siamo tutti quanti insieme nel racconto, quindi è molto potente, è importante anche ritornare a dare vita a questa a questo modo di fare teatro. Tra l'altro questa cosa, quando io sono quando sono venuta qua, cioè dovevo venire qua e mi sono preparata per la lettura, perché io ormai lo metto in scena da molto tempo, quindi mi sono andata a recuperare la prima versione, anzi la seconda versione, perché la prima versione aveva due attori in scena, poi ho detto lo posso pagare quell'attore? No, e quindi faccio tutto da sola, benissimo. E nella versione le didascalie per me è stata proprio una bella riscoperta, perché la didascalia ti dice anche un po' qual è il mood che l'autore voleva trasmettere, e io questa cosa comunque l'ho rubata a pie pari dal Peter Pan di Barry, perché Barry anche lui utilizza molto queste suggestioni, queste, non ti dice esattamente quello che succede, magari lui sì, perché comunque faceva un altro tipo di teatro, però a me interessava dare una suggestione su qual era il mood per creare il mood, mamma mia, per creare lo spettacolo. Cioè a me non interessa se mai Wendy avrà una vita, cosa che io mi auguro a prescindere da me, che è cosa che proprio spero tantissimo, anche perché io ho 28 anni, tra qualche annetto non la faccio più Wendy, cioè anche perché chi ci crede? Sono qui! No, io voglio trasmettere proprio questa voglia di raccontare la cosa senza prendersi troppo sul serio, e magari chi lo metterà in scena lo farà in maniera totalmente diversa, e bene che sia diversa, poi ovviamente voi non l'avete vista la messa in scena, però per capirci. Non mi interessa, però la cosa che era importante per me era trasmettere la temperatura, il momento in cui era giusto prendersi un pochino più seri, prendersi sul serio, dilatare, essere invece più ironici. Cioè, quindi la didascalia in realtà aiuta moltissimo l'autore a farsi capire, o almeno in questo caso penso di sì. Ah, concordo, infatti appunto anche il testo di Simona Semenci addirittura prevede la lettura della didascalia, quindi era molto, cioè proprio per rendere ancora più visibile il fatto che non fosse solo una performance, ma che ci fosse appunto un dialogo più reale, non so come dire, più in connessione con le persone. E, giuro, ti faccio l'ultima domanda tecnica, poi voglio entrare nel tema della crescita. per chiederti com'è stato, nel senso che mi interessa saperlo anche alla finalità di questo podcast, com'è differente la lettura scenica rispetto a una performance. Appunto tu hai detto che l'hai già presentato, però sotto forma di spettacolo, e quindi se appunto da drammaturga questo è un tema che, cioè come dire, questa forma come funziona per te, che valore ha, e se come ti sei sentita rispetto a fare uno spettacolo? Beh, difficile, cioè era proprio difficile, perché quando io sono in scena ho pochi momenti, però qualche momento di ripresa ce l'ho, invece qua mi si vedeva, e questa cosa è stato un trauma. Cioè dopo il momento in cui Wendy lascia Peter e poi ritorna quel momento tutto sempre svolazzante della madre e del padre, è stato difficile, perché non hai il momento di stacco. Quindi è stato un esperimento interessante, devo dire. Non mi aspettavo che mi venisse così complicato. Cioè c'è stato proprio un momento in cui ho detto vabbè, adesso basta, smetto, cioè non lo faccio più. E invece poi ho fatto la stupidaggine di decidere di fare io da tecnico. Ma sono pazza, non stiamo scherzando, no, mai più. Quindi però dall'altra parte, secondo me, leggere, ora ci vuole per esempio le didascalie, crea delle suggestioni diverse. Cioè secondo me se voi doveste un giorno vedere lo spettacolo, cosa che mi auguro, ma chissà, ci sono state proprio delle suggestioni molto diverse, cioè come è stato risolto registicamente, perché poi l'ho messo in scena grazie a Aurora Miriam Scala, diciamolo, la regista che ha creduto in questo progetto insieme a me. Abbiamo trovato soluzioni totalmente diverse rispetto alla didascalia, perché probabilmente non si poteva fare. Quindi è stato anche bello per me stessa avere delle suggestioni diverse rispetto a quelle che io ho quando sono in scena. Quindi hai proprio una fruizione del testo molto diversa, cioè da dentro. Non so voi. Poi apriamo le domande al pubblico, ovviamente. Sì, ragazzi. Poi siete al buio, gioiuzza. E niente, quindi adesso ti chiederei di entrare nel merito del testo, perché vabbè, prima ne abbiamo già un po' parlato quando ci siamo conosciute così, ma penso che sia un tema molto attuale quello della crescita, e quello che ci dicevamo prima, riassumo un po' la nostra discussion, è stato che è vero che la nostra società ci impone a un certo punto, no, di dire ok, adesso sei grande e quindi devi affrontare la vita, ma di fatto oltre al fatto che non ci dà nessuno strumento per fare questa cosa, comunque è come se non ci fosse, cioè mi ha colpito il fatto che tu mi avessi detto io non so quando diventerò grande, se sono diventata grande, cosa vuol dire, e quindi, e c'è anche un certo punto, una frase nel testo, quando il papà va a parlare appunto a Wendy, che dice che non si può più sbagliare a una certa età, che mi ha colpito tantissimo. Voglio parlare di questa cosa. E che appunto, quindi non so se anche tu, cioè qual è la tua idea di crescita, o appunto proprio perché hai scritto questo testo, se c'era un fine nel raccontare questo tema. Allora, intanto faccio semplicemente un link. La cosa è stato interessante una volta fare una replica per genitori e figli, perché è stato molto interessante avere dei feedback, ovviamente da parte di ragazzi, adolescenti e invece della mia età, quindi più grandi, quindi adolescenti, adolescenti economici. E gli adulti, cioè i genitori, vedi? Perché molto questa mamma mi ha detto: ho messo molto in discussione me stessa come madre, cioè il creare così tante aspettative sul figlio, cioè su quello che sarebbe dovuto diventare. Perché secondo me noi abbiamo delle aspettative di come saremmo. Come saremo da grandi, che verranno assolutamente deluse, perché noi a parte che il periodo storico nella quale ci proiettavano i nostri genitori era il loro periodo storico, quindi tu dici c'è qualcosa di diverso adesso che sono grande, e quindi secondo me noi siamo molto montati dalle aspettative, cioè dal fatto che noi un giorno diventeremo quella cosa là. Cosa non vera, cioè, cioè tu ti immagini che sei fidanzato con cioè uomo donna, con una figlia, con la casetta, io me la immagino così, cioè tipo con il tetto a punta. Sì, il tetto a punta, che tra l'altro in Sicilia non c'è, quindi cioè che aspettativa totalmente fuori dalla concretezza delle cose, e poi la realtà ti rendi conto che è totalmente diversa dal... Da sì, è diversa, e soprattutto c'è, cioè, appunto la cosa che a me stupisce personalmente è che c'è questa aspettativa, no, di dire ok, hai una certa età, o per esempio anche tu nel testo a un certo punto dici adesso farai l'università, dovrai scegliere una cosa pensando al tuo futuro, devi scegliere una cosa concreta, appunto anche tu fai il gioco ironico su disoccupato o disagiato. e quindi c'è assolutamente questa pressione che a un certo punto improvvisamente dobbiamo prendere delle scelte da soli, no? Sì. Da sole, e quindi dire ok, questa cosa la devi scegliere tu, però almeno per la mia esperienza personale non mi sembra che ci sia mai stato una cultura, un'attenzione al fatto di aiutarti in quel percorso, no? Cioè fino a un certo punto hai questa formazione definita perché è così dallo Stato, dalla società, eccetera eccetera, per cui hai la scuola d'obbligo e devi fare quella cosa lì, e poi a un certo punto bam, ti botto, devi scegliere, vai. Tu vai, lanciati, fai, e sei perso nel marasma dell'universo, che poi il bene o nel male, nella società in cui viviamo globalizzata abbiamo mille scelte, no? Invece penso, anche solo per la generazione dei miei genitori, era anche difficile, cioè erano pochi quelli che avevano accesso all'università, quindi se penso oggi a tutte le possibilità che ci sono, mi immagino, vorrei mai essere genitore forse, non lo so, la difficoltà di scegliere il proprio futuro e di avere... Cioè, come se ci fosse anche questa aspettativa che devi già avere chiaro cosa vuoi, cosa sei, e non ci sia diciamo, quello, in questo senso intendevo uno strumento, un accompagnamento, è come se non ci fosse lo spazio di poter fallire anche, no? Cioè di poter dire provo una cosa e vedo se mi piace, se non mi piace, capisco, cioè vorrei avere il tempo di capire questa cosa, non me la sento di avere già chiaro il mio percorso, e invece è come se non ci fosse quella possibilità lì, cioè poi sei subito incasellata, incasellato in un percorso di, cioè, studio, università, mi laureo, lavoro, mi sposo, faccio una famiglia, non lo so, come se tutte le variabili invece non fossero considerate. Ma più che altro, cioè io la percezione che ho da dentro quando vivo nel mondo è che devi essere iperperformante, questa parola terribile, e quindi non puoi sgarrare, cioè una volta che hai scelto, boom, basta, via, fatto. Dice Mr. Darling. Sì, non puoi sbagliare alla mia età. Non puoi sbagliare, cioè, e invece no, cioè, ma probabilmente perché ai tempi era anche molto difficile tornare indietro, no? Forse se ti trasferivi da una città, cioè io penso per esempio oggi, se io mi dovessi trasferire a Milano, non è, cioè, sicuramente avrebbe bisogno di un consapevolezza, di farsi delle domande, però lo posso fare e posso anche cambiare idea anche qualche mese dopo. Forse ai tempi dei nostri genitori non c'era una scelta così serena da prendere, forse, e quindi questa ansia da prestazione di dover dire ah sì, è questa la scelta giusta, andiamo, forse è anche ereditata da questo, non lo so, sto pensando ad alta voce un po' insieme a te, ma quindi questa possibilità di poter fare tutto ma con il ricordo di quell'ansia di dover essere subito prestante ti porta anche un po' a un'immobilità, ma infatti, cioè, io ho anche la sensazione che tendiamo ad essere anche un po' immobili, no? Cioè io sono tipo wow, sì, mi sembra che ci sia una paura costante di affrontare, cioè tu parli molto del tema delle responsabilità anche appunto nel tuo testo, no? Cioè del crescere di fondo significa assumersi delle responsabilità, hai fatto il giusto esempio anche della guida, no? Quindi di dire nel momento in cui cresco è perché mi accorgo che ho una responsabilità verso di me così come verso gli altri, e a me sembra che ci sia cioè non sono nessuno per dirlo, però un blocco su tanti fronti in questo senso di, cioè come dire, da una parte c'è poi quello che dicevamo prima quando parlavamo, anche questa cosa che secondo me noi siamo in una generazione un po' di mezzo, quindi c'è la generazione prima di noi che è un po' più bloccata in delle tradizioni più precise, forse sta più in quella comfort zone, e la generazione dopo di noi che addirittura la rinnega completamente o la mette tantissimo in discussione, ha meno quella paura di affrontarla, e poi ci siamo noi in questa zona grigia che non sappiamo cosa fare. Però mi sembra che abbia un riflesso su tantissime cose, cioè sia sul lavoro, sulla scelta del futuro, di dove vivere, di come vivere, gli spazi, le città, così come le relazioni, cioè anche immagino la messa in discussione dei tipi di relazioni, quindi non solo eterosessuali o poliamorose, non poliamorose, non lo so, penso tantissime variabili che ci sono, e per quanto sia bello avere quella possibilità di scoprirsi, appunto resto dell'idea che sia molto difficile poi avere gli strumenti di starci dentro e di non farsi vincere dalla paura di dire che cazzo voglio, cosa voglio. Ma infatti, allora, io come ci sto dentro? Ci sto dentro, punto in te. E, ma infatti, cioè, io ho questa percezione da un bel po', cioè che io la nostra generazione la vorrei abbracciare, perché ho la sensazione che siamo di una fragilità enorme, ma io mi vorrei abbracciare, cioè mi vorrei dire sei così fragile, cavolo, cioè ogni cosa per te è un problema, cioè non è un'opportunità, è un problema. E ho anche la sensazione che noi a livello emotivo non riusciamo a gestire questa cosa. Forse, chiedo scusa se è una stupidaggine, probabilmente è una stupidaggine, però magari, cioè adesso devi avere la sensazione di dover fare la cosa per passione, cioè per amore, quindi devi trovare questo amore per forza, anche nelle relazioni, devi amare, altrimenti niente. E infatti le relazioni finiscono perché non hai neanche il tempo di capire se stai amando effettivamente una persona o meno. E quindi siamo mossi da questa iperemotività che ci deve guidare, e non la sappiamo gestire. Però dall'altro lato faccio una pacca sulla spalla alla nostra generazione, cioè noi ci mettiamo molto in discussione. Ci proviamo. Andiamo dallo psicologo. Tutti. No, tutti no. Però molti, cioè, parecchi. Cioè, quindi da questo punto di vista, secondo me, noi stiamo facendo un grandissimo lavoro su noi stessi, di ascolto. Forse non raccoglieremo noi i frutti di questa cosa. E questa è la cosa che forse fa male, che magari non la raccogliamo noi questa cosa qua. La raccoglierà la generazione dopo. E alla fine è anche un po' giusto così, in qualche modo. E quindi sì, sono assolutamente d'accordo che noi viviamo questo stato di bilico, ma perché ancora non abbiamo capito benissimo quali sono le regole per stare bene, esatto, qua dentro, e le stiamo anche un po' creando noi in qualche modo. Non è facile, ci vuole tempo. Sì, o anche io penso, in realtà noi stiamo mettendo in discussione forse anche il fatto che esistano delle regole, cioè non so, forse il fatto anche di dirsi non c'è una regola di come bisogna stare, ma il senso è trovare un modo per stare bene con se stessi e gli altri, e quindi difficilissimo, perché poi con te stesso magari un percorso lo fai, ci arrivi a un certo punto a capire come stai bene, bisogna capire poi se con gli altri funziona. Sì, sì. Ma anche un po' questo, cioè, il ricircolo di persone, no? Che ci influenza. Cioè, io ho la percezione, io quando conosco una persona, veramente mi influenza tanto poi nella mia vita. Quindi, cioè, avere una persona davanti è un fatto, cioè, è che la includi nella tua vita. E questo ricircolo. Io mi sono accorta che le mie amicizie storiche, è anche faticoso amarle, cioè scegliere di amarle, perché siamo così diverse ormai che quella persona non esiste neanche più, quella che hai conosciuto. E quindi scegliere di amare quella persona è molto faticoso, e a quella persona gli vuoi bene. Figurati le persone nuove che stai conoscendo adesso, quanto sforzo di volontà nel decidere di lottare per quella relazione. Decidere di lottare, infatti, secondo me è difficile. Ma comunque volevo un po' aprire il dibattito, sì. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. Vedo niente. Neanche io, in verità, ho la luce un po'. Sì, se avete ovviamente domande, anche impressioni, tutto. Accettiamo. Allora, scusa, la ripeto per farla restare in registrazione, e qualcuno ci hanno chiesto quanto è cambiato dalla prima scrittura al tuo testo. Totalmente, giusto. Tantissimo, tantissimo, grazie al cielo. Cioè, all'inizio era un dialogo, erano dialoghi a due tra Wendy e il signor Darling, Wendy e Peter, la signora Darling e il signor Darling. Poi, vabbè, per questioni economiche non abbiamo esplorato quella strada. Torno sempre là. Perché è vero. Poi abbiamo esplorato il teatro di figura, quindi abbiamo pensato, va bene, anche se non lo possiamo mettere in scena con attori, facciamo con due attori, usiamo dei puppet. Anche quella è stata una strada totalmente bocciata, perché anche lì c'erano dei problemi di budget importanti. Abbiamo detto, forse a questo punto meglio pagare un attore. Ma è stato molto... allora, poi per te che lo reciti, è interessante perché cambi veramente punti di vista molto, molto velocemente. E quindi... è anche un po' un bagno di umiltà, che dici, vabbè, non solo Wendy ha le sue ragioni. E poi, quando ho scelto la versione definitiva, e non, quindi ero sola in scena, in realtà questo testo è cambiato ancora di più, a parte il fatto della scena finale della macchina, che è totalmente cambiata. Io ho inserito altre scene che non vi ho letto. Dun dun dun. Oh. Su spance. No, perché ho parlato con dei ragazzi del liceo, mi sa, e uno di loro ha detto, effettivamente la perdita è proprio una cosa brutta, e ha parlato di una sua perdita familiare. E io effettivamente ho capito che non avevo creato un link infanzia, fase adulta sulla perdita. Cioè ho buttato tutto direttamente su Peter. E quindi avevo bisogno di creare altri due momenti molto, molto brevi, in cui Wendy scopre la perdita, non soltanto quella dell'amore, che è un dolore, ma anche la perdita di un caro che fisiologicamente a un certo punto se ne va perché è più grande di te. Quindi ho aggiunto pure queste cose qua. Ma la cosa, cioè, a me Wendy proprio piace perché davvero io le cose le aggiungo grazie al pubblico. Cioè la penso una cosa potentissima, che il pubblico può influenzare quello che un qualcuno dice su un palco. Cioè è forte una cosa del genere. E tra l'altro non sono persone, sono persone che in questo caso erano dei ragazzi di una scolaresca, alla quale si dà pochissimo credito, e soprattutto quando stai vedendo uno spettacolo zitti, cioè silenzio. Tant'è vero che a volte in alcune repliche per delle scolaresche vedevo il pubblico morto, perché è stato traumatizzato da delle insegnanti che dicevano zitti, non si parla. E io dicevo, lo sapete che potete ridere? Cioè possiamo dialogare anche sotto il paraverbale, non il verbale. E ti immagini, io l'avessi detto così, il paraverbale. Loro, cosa? E quindi la trovo potente questa cosa, che una persona dal pubblico possa dire qualcosa a qualcuno che sta sul palcoscenico e che ha la possibilità di avere un microfono e cambiare la sua istanza, non so come dire. Sì, sì, no, certo. Quindi per fortuna tantissimo, abbastanza. Qualcun altro? Se no io ho una domanda. Sì. Scusami, visto che sei vicina. Perché non ho la voce proprio altissima. Intanto grazie, perché ti invito a non considerarla una perdita, soltanto il fatto di non avere i soldi per permetterti altro, perché a me è piaciuto molto il tuo cambio di modalità per leggere in una modalità o nell'altra, insomma, e lo reggi benissimo, è molto credibile, per cui a me è piaciuto molto. Grazie. Non sapevo fosse anche una strategia economica, però. E poi invece ho una curiosità fortissima, devo assolutamente chiederti perché li hai chiamati Wendy, Peter e Darling e non con dei nomi italiani. Bella domanda, me lo chiedo anch'io. Perché in realtà i personaggi che ho scritto per me sono molto simili a quelli che racconta Barry. Da un lato questa è una cosa un po' più cioè intima, e cioè che non hanno niente a che fare con i genitori che io ho avuto. E tra l'altro è stato bello perché molte cose le ho vissute, ma molte cose non le ho vissute e mi sono data la possibilità di viverle, cioè di vivere delle cose che magari in una certa fase della mia vita non ho avuto la possibilità di viverle. Ripeterò la stessa parola ogni 300 volte. Quindi per me era molto, cioè ho quasi dato un ringraziamento a questi personaggi di Barry che ho amato alla follia da morire. Cioè il signor Darling è proprio un patatone e la signora Darling comunque è presente, anche se non sembra, è sempre comunque attenta. E quindi in realtà è semplicemente un ringraziamento all'autore che mi ha fatto scrivere questa cosa qui, anche Wendy. Però sono cosciente che effettivamente, cioè, a molte persone no, però effettivamente alcuni si fanno questa domanda e credo che in questo momento la risposta più onesta sia questa, cioè perché per me sono loro in questo senso. Grazie. Nessun altro? Perché se no ti faccio questa domanda conclusiva, che mi sembra che sia un po' il tuo fil rouge comunque dentro il testo, poi correggimi se sbaglio, che l'associare l'idea della crescita a un dolore, cioè come dire, non è, non so, tendenzialmente, effettivamente è come se fosse un passaggio necessario. Cioè a un certo punto lo dici anche più volte nel testo, no? Ah, tanto guarda, la vita ti praticamente ti sbatterà mille porte in faccia, preparati, non è la prima, no? E quindi effettivamente c'è questa idea nella società, che mi sembra di poter dire, che per crescere devi soffrire, devi provare un dolore di qualche genere, e che questa cosa come trasforma, no, la tua idea di, non so, di quell'infanzia anche un po' intoccata, no? Infatti quando ne parlavamo anche prima, dicevamo il fatto che viviamo un po' in questo conflitto di avere l'esigenza e comunque diciamo anche proprio pratica di crescere, però allo stesso tempo di voler preservare quell'essere bambini, nell'ottica che è quella fase della vita in cui tutto è sempre bello, tutto, cioè come dire, sei un po' intoccato da delle difficoltà della vita. Però penso anche che il tema del dolore, appunto, da una parte sia un tema che non venga, come posso dire, affrontato in un modo concreto, nel senso che è sempre un po' una, appunto, è come se non ci venissero poi dati quegli strumenti, no? Quindi anche i genitori che sanno che queste cose succederanno, e quindi magari perché le hanno vissute, poi è come se non riuscissero a trasmetterti il modo di, poi ovviamente ognuno elabora il dolore nel suo modo, però non so come dire, a darti una forma di tutela, di strumento per affrontare, almeno anche per, come dire, ammettere che quella cosa esiste e che quindi attraverserai quella cosa lì, e raccontarti anche solo la loro esperienza per, come dire, aiutarti in quel processo. E dall'altra che ci sia anche proprio un tema quasi negativo, cioè come dire, che non si può soffrire, cioè che appunto dobbiamo comunque stare bene, essere performativi, e quindi che quel processo che in realtà è necessario per la crescita è come se dovesse essere invisibile. Ma infatti, guarda, io tutelerei proprio la parola sofferenza, perché io i bambini hanno una grandissima capacità di soffrire, ed è bellissimo questa cosa qua, cioè anche quando non soffrono veramente, magari, no? Il bambino che cade, fa ah! Cioè è strepita, perché ha bisogno di esperire quell'emozione, e quella anche quell'esperienza che lo ha reso attonito alla vita. Immagino un bambino dice: mi ha reso attonito questa. E quindi questa sofferenza, secondo me, la dobbiamo molto tutelare. E a volte io ho avuto la sensazione che invece noi non dovevamo soffrire, cioè dovevamo essere già pronti a sapere come reagire, e non goderci quel momento di sacro e benedetto dolore che ci ha portato quell'esperienza. Poi, quando si soffre, si fa di tutto per soffrire meno. Infatti sacro l'alcol per certi aspetti. No, perché ti anestetizza. E quindi sì, cioè io proprio quello che... cioè questo testo è vero che è pregno di questa cosa qua, cioè di dire, nel senso che anche dici affronto la responsabilità, cioè la prima responsabilità è quella verso di te, di dire ok, affronto questo dolore, sì, qualsiasi esso sia. Sì, sì, assolutamente. Ma infatti per questo che siamo anche iperprestanti, secondo me, perché un po' la nostra generazione è stata educata al dire ok, basta, reagisci, non piangere, ok, muoviti, ok, in fila per due, ok, tu quindi ti sei messo a recitare qualcosa che non... il tuo corpo a un certo punto ti dice ti prego fammi piangere un po', ti prego. E quindi la sofferenza è una cosa, secondo me, da coltivare tantissimo. E non perché è bella, perché è giusto che si abbia il momento della crescita. Che parte della crescita. E quindi sì. Ups. Va bene, Alba, grazie. Mi hai illuminata stasera. Grazie. E se nessun altro dire da dire qualcosa, o se tu non vuoi aggiungere altro, andiamo a lavorare. Esatto. No, grazie, è stato veramente siete stato un pubblico bellissimo. Grazie a te. È molto bello. Grazie a te, grazie a Martina che non c'è, esatto. E grazie a Exalge. Sì. A Radio Exalge. Sì. Grazie.